e tu sarai la mia risposta, forse già lo so, ma se vorrai ci sarò, accorceremo le distanze. L'estate migliore da vivere, finalmente è arrivato il vero tormentone estivo. Abbiamo scelto, abbiamo pensato quale potesse essere, ne abbiamo citati tutti. Io alla fine ho scelto, caro Daniele, il tormentone dell'estate, siamo l'estate migliore da vivere. Sì. E allora ti faccio un regalo per questa puntata di RadioTube. Sì. Così la faccio materializzare qui, proprio la plasmo in 3D davanti ai tuoi occhi. Cristina D'Avena! Cristina D'Avena! Ma tra l'altro, guarda che dispiegamento di forza! Dispiegamento di forza, cioè, telecamere, cioè la folla. Una, ma cosa, perché Cristina se la merita. Cristina, allora, com'è nato questo? Perché non, insomma, non era scontato. Quando io ho visto, l'ho visto subito sui social, sì, Cristina D'Avena col singolo dell'estate, ho detto, beh, intanto grandissima idea. Ma sì, secondo me è un disco fresco, estivo, che secondo me appena senti la prima nota sorridi, non so perché, ti viene subito il buon umore, no? La gioia. E poi devi sapere oltretutto che questo brano è stato scelto per il Padova Pride Village. Certo. E quindi sono doppiamente orgogliosa. Io immagino il delirio sì, al Pride di Padova. È stato bellissimo. Già con bellissimo. Te che sei, lo so che dire icona gay è una roba banale, però no, sono molto amata da questo pubblico che mi segue veramente da quando ho iniziato, perché i miei cartoni animati sono cartoni animati secondo me speciali, quindi se parliamo di Crimi, di Gem, di Pollon, cartoni animati belli, non che adesso non siano belli, per carità, non voglio dire questo, però sicuramente erano un po' più magici, ecco. Sì. Diciamo che forse erano più magici. Tu che pure eri una ragazzina hai fatto la rivoluzione. Sì. Diciamo che con appunto l'avvento, insomma, la nuova televisione, quindi che nasceva in quegli anni, avevano un materiale incredibile e cercavano questa voce che potesse interpretare una sigla, perché in realtà all'inizio era una sigla. Cos'erano i Puffi? No, era Pinocchio. La prima sigla è stata Bambino Pinocchio, quindi cercavano una voce per interpretare Pinocchio, in realtà, e non per interpretarne 750, capito? Sì, esatto. E poi dopo tutte. E quindi vennero all'Antoniano a cercare, visto che io ero appena uscita dall'Antoniano, insomma, io non sono uscita all'età di 11 anni, e ho iniziato a 16, quindi... Però accompagnavo poi mia sorella, perché a sua volta era nata ciao mia sorella Clarissa. Dopo 10 anni, ciao Clarissa, che anche lei era entrata nel piccolo coro, quindi insomma ero sempre lì. E vennero all'Antoniano a chiedere se c'era una voce che interessante, insomma, un po' diversa dalle altre, che potesse interpretare una sigla. Sono andata a fare questo provino a Milano con il mio papà, perché non mi lasciava un secondo, certo. Ti puoi immaginare, quindi la figlia femmina, poi sai, una volta, 30 anni, più di 30 anni fa, non è come adesso che magari le ragazze sono un pelino più intraprendenti. Io ero veramente piccola, cioè a 16 anni ero veramente piccola, quindi mio padre mi accompagnò, mi aspettò e feci questo provino. Dopo un paio di giorni mi hanno convocato e io ho cantai la prima canzone, che era Bambino Pinocchio. Tutto sembrava finire così. E invece poi... Ecco, ma il fatto che venissi sempre scelta, tra l'altro con un ruolo di una certa responsabilità nei confronti dei ragazzi, voleva dire che ovviamente eri la più brava, ma soprattutto serviva quella voce per rassicurare i ragazzi, cioè te lo sei mai chiesto e ti sei dato una risposta sul perché? Io all'inizio non mi sono fatta domande, perché mi chiamavano, io andavo ad incidere, tornavo a casa, cioè era questa la mia vita, cantavo, incidevo. E quando le mie canzoni iniziarono ad entrare nelle classifiche, e poi c'era Bim Bum Bam, e quindi arrivavano tante lettere, quando anch'io cominciavo a ricevere delle bellissime lettere che, pensa, io ancora conservo. Io ho una cestone, ne avrò adesso io ti parlo potrei di uno perché scritta per... ma bellissime, delle lettere bellissime, cestoni immensi in questo magazzino dove ho tante cose mie di media. Vabbè, sono... bisogna fare la mostra, sì, allora sì, bisogna fare la mostra, sì, di Cristina, e non le ho neanche lette tutte perché guarda, e le leggo ora e ti garantisco che mi emoziono perché mi è capitato, pensa, una cosa bellissima, proprio un annetto fa circa, di aprire una letterina, perché io ogni tanto, perché io ho i miei momenti, no, vado in questo magazzino e vado a vedere un po' i miei, le mie cose, i miei vestiti, non so perché, non so se vi capita ogni tanto, ma io ho bisogno a volte, no, di entrare nel mio mondo. Io rileggo i diari. Bravissima. E io ho questo cestone, questi cestoni con le lettere. Allora mi ricordo che aprì uno di questi cestoni immensi e presi una lettera a caso, non una, scusami, 7-8 a caso, no? Qualcuna era già aperta e qualcuna no. Ne presi una in mano, l'aprì e lessi questa lettera tra me e me, no? E dico, mamma mia, dico, che belle cose. Questo bambino di allora, non so, aveva 7 anni, perché io ti guardo, perché... Ma tu mi credi che a distanza di 30 anni... E ad un concerto, io non so se feci un'intervista o parlai, insomma, di questa lettera che avevo aperto di questo bambino. Ora, io non avevo detto il nome perché manco me lo ricordo, ma si presentò un ragazzo e mi disse: ma sai che secondo me tu hai letto la mia lettera? Dico, ma come fai a dire questo? Perché quello che tu hai detto è quello che in realtà io provavo. Ed è stata una cosa per lui, che per questo ragazzo che venne al mio concerto e mi disse questa cosa incredibile, però poi non ho anche mai più visto. Cristina, i tuoi concerti però sono degli spettacoli negli spettacoli, cioè tra Carnevale, Capodanno, sì, quasi liberatorio, catartico. È vero, è così. Io credo che sia liberatorio, cioè ai miei concerti il pubblico riesce ad esprimersi, perché si entra in un mondo... A volte sembra surreale, no? Perché tu dici, io vado a cantare le sigle. Boh. Penso che molti magari possano avere il dubbio, ma chi va ad ascoltare le sigle dei cartoni animati? E invece, le sigle dei cartoni animati hanno un pubblico e un seguito incredibile. Quindi i miei concerti ma poi vengono anche trasmesse in discoteche importanti, ma c'è sempre, no, quello che dice ma chissà. E invece io, allora, parlando prima del fatto che il pubblico si traveste, si fa, partecipa, è vero, cioè il pubblico ha la voglia, secondo me, di liberarsi e di esprimersi. Quindi vengono i cosplay, vengono gli omosessuali che hanno voglia di cantare liberamente e di condividere con tutti l'emozione, capito? Perché il pubblico è a 360 gradi, quindi ci siamo tutti, ed è bellissimo vedere come l'omosessuale che ama Crimi perché c'è la trasformazione, certo, e c'è l'altro ragazzo che ama Robin Hood o che ama Holly e Benji, e si canta Holly e Benji e condivide con tutti il momento meraviglioso delle sigle e dell'amore, perché io quello che voglio dare è amore a 360 gradi. Ecco perché poi la mia canzone che parla d'amore, d'arcobaleno, di colore, è proprio il fatto dell'amore, cioè l'amore con la A maiuscola. Quindi da me, perché è così, si respira l'amore con la A maiuscola, e quindi io ci tengo a dirlo tantissimo. È stra vero, anche se secondo me vincono le Sailor Moon alla fine. Ma Sailor, Sailor sono, cioè io ho fatto però un... tutte femminili, tu dici, come... No, sai cosa c'è? Sai quei sondaggi che fai guardando a volo d'uccello? Secondo me Sailor Moon domina. Occhi di gatto. Anche tantissimo. Occhi di gatto. Sì. Johnny, perché Johnny è quasi magia, piace a tutti. Holly e Benji, che è un altro cartone animato bellissimo, secondo me. Lady Oscar, ecco, Lady Oscar. Ecco, ogni tanto Lady Oscar, proprio, di Daniele. Siamo proprio Mile Shiro, cioè. Sì, però Lady Oscar per un maschio è proprio l'inizio di un mondo. Vedi, però. Ah, davvero? Non avevo mai Oscar. Sì, ti si apre un universo con Lady Oscar. Ma ce n'è una che non hai cantato tu e che hai detto avrei voluto cantarla? No. L'uomo tigre non è mia. Avresti voluto? Mi piaceva. Facciamo bella, bella. L'ho fatto, sai, l'ho anche cantato. L'hai cantata dopo? Ma io mi diverto, cioè io ai miei, allora, ai miei live. Cristina, quante volte ti hanno fatto rivedere in televisione non solo il valzer del moscerino? Cioè ogni volta che te la fanno rivedere? Eh beh sì, mi fanno rivedere il valzer del moscerino, mi fanno vedere Marielle Ventre che è stata per me una persona splendida. E mi fanno rivedere ultimamente Mago Zurlì. Io con lui, sai, avevo, così come con la signorina Mariera, un rapporto meraviglioso, perché ci ritrovavamo ogni anno, no? Un po' per le varie manifestazioni all'Antoniano, un po' perché insomma ci si, allo Zecchino d'Oro, perché comunque ogni anno io o come ospite o perché andavo a trovare realmente cioè, quindi ci si vedeva sempre. E quindi c'era un legame molto profondo. Non me l'aspettavo, insomma, ti dico la verità, che ci lasciasse così in fretta, nel senso che l'avevo visto a dicembre, ci dovevamo rivedere a Pasqua, insomma, perché quest'anno si festeggia il 60° anno dello Zecchino d'Oro, e quindi lui pensava di fare con me qualcosa di importante, no? Per festeggiare i 60 anni. Allora lui mi disse a Natale, allora ci mettiamo d'accordo per Pasqua e poi a Pasqua parliamo, andiamo dai frati. E ho detto va bene Cino, io sono d'accordissimo con te, e io aspettavo la chiamata. Invece lui proprio è morto prima, o subito prima, o subito dopo Pasqua, insomma, comunque in quella, purtroppo in quel periodo. E mi è dispiaciuto tantissimo. Purtroppo è così, la vita si va avanti, no? Devi accettare anche il fatto che punti di riferimento prima o poi, perché per me, sai, all'Antoniano, Marielle, padre Berardo, Cino Tortorella, insomma, erano punti di riferimento importanti. Ci sono andata io, a 2 anni ho iniziato a frequentare l'Antoniano. 2 anni, io avevo 2 anni e mezzo quando ho fatto le selezioni, perché io ho cantato allo Zecchino a 3 anni e mezzo. Ora tu considera che tra le selezioni poi tutta la preparazione ci vogliono 6, 7, 8 mesi, insomma, più o meno. Quindi io avevo, diciamo, quasi 3 anni, non avevo ancora 3 anni quando la signorina Marielle mi fece fare le selezioni. Questo me l'ha raccontato mia mamma. E poi ho cantato a 3 anni e mezzo. Quindi ho iniziato a frequentare l'Antoniano da piccolissima. YouTube. E siamo con l'ultimo spicchiettino di questo Radio Tube insieme a Cristina D'Avena. Daniele, ma uno che inizia a cantare in pubblico così presto, quindi non prova paura quando sale? Cioè vedi, se ti avessero fatto cantare presto, poi avresti imparato. No, cioè in 40 a cantare anni, non credo, però dai, magari superare la timidezza, non lo so, provi ancora paura, emozione. Ovviamente, sai, quando ti trovi davanti a tanto pubblico, beh, un po' di paura ti viene. Che emozione è stata salire sul palco dell'Ariston di Sanremo? Bellissimo, ero emozionatissima. Cioè, non so che cosa mi sarebbe successo, nel senso che io andavo lì a cantare Kiss Me Licia, renditi conto. Cioè, quando ovviamente mi avevano dato la conferma della partecipazione, mi era venuta una paura pazzesca. Per cui io dentro di me dicevo, mamma mia, adesso vado all'Ariston, che paura! E non ci dormivo. Poi ho cominciato, insomma, a tranquillizzarmi, perché in realtà, insomma, avevo detto, ma no, insomma, adesso vado a cantare la mia Kiss Me Licia, Occhi di Gatto, mi le sciro, vado, faccio, mi presento. E siccome la mia musica è una musica, come sto dicendo da sempre, speciale, no? Perché è una musica speciale in realtà. E invece io sono andata con tutta la mia gioia. Ma lì si vede il genio di Carlo Conti. Ma certo, che io amo. Ciao Carlo. Ma adesso infatti ti devo fare un'altra domanda su Carlo Conti, ma comunque. Comunque per fartela breve, insomma, quindi io sono andata con tutta la voglia, la felicità di questo mondo, e in effetti ho portato la mia gioia e si è visto, perché il pubblico è impazzito. Sono riuscita a far battere le mani e cantare chi... Tutti quelli che erano in prima fila cantavano, e per me, guarda, è stata una cosa meravigliosa. E poi orgogliosissima di aver portato la mia musica al teatro Ariston. Cristina, da quella sera lì all'Ariston, secondo te un po' è venuto quella voglia di Carlo Conti di prendere in mano, di seguire questo anniversario dello Zecchino? Ma io penso che lui sia legatissimo all'Antoniano, allo Zecchino d'Oro più che all'Antoniano, no? Quindi a queste manifestazioni che tutti abbiamo guardato, perché lui addirittura è legatissimo al mio valzer del Moscerino. Quindi io penso che lui sia comunque legato allo Zecchino d'Oro e abbia un ricordo veramente importante sia della signorina Maria Leventre che di Cino Tortorella. Quindi ancora di più secondo me adesso lui ha voglia di prendere in mano, insomma, un po' lo scettro di questa di questo sessantesimo anno, per farlo, insomma, diventare una bella manifestazione, perché lo Zecchino ha bisogno di questo, cioè non dimentichiamocelo, ogni tanto lo Zecchino viene un po', no, messo lì da parte, ma in realtà lo Zecchino d'Oro è un po' come Sanremo, certo, è nato 60 anni fa, cioè, e poi ci sono i bambini che fanno i bambini, che in TV non è mica scontato. Sì, i bambini fanno i bambini, sì, è vero, e questo era una, diciamo, una cosa, una regola che aveva sempre messo, che aveva sempre portato avanti la grande signorina Maria Leventre. Appena un bambino si atteggiava un po', diceva: no tesoro, no, tu qui sei un bambino come gli altri e devi fare il bambino, tu non sei un cantante. Io me lo ricordo ancora, che lei ha sempre cercato di trasmettere questo: è un gioco, voi state giocando, non vincono i bambini, ma vincono le canzoni. Ricordo da bambina che sì, che le vincono, sì, sì, le palette con le margherite. Vincono le canzoni, e guarda che questo è importante, Sì. Io mi aspetto grandi cose anche da Cristina per questo sessantesimo, chi lo sa, spero. Lo spero anch'io, davvero. Questa estate migliore che c'è, dentro di te è aperta una porta, cioè hai voglia di... Vedi che si torna a... No, ma certo, perché adesso che hai fatto anche tu la canzone estiva, ti viene voglia, io poi ogni volta lo sa che glielo chiedo, un disco, guarda, di sigle, un Sanremo da... Allora, un Sanremo non lo so, perché... Hai fatto il Wind, magari ti viene voglia. Che bello, quanto mi sono divertita. Anche lì, guarda, fantastico. Allora, quando ho visto il pubblico che ha cantato di giovanissimi, qua parliamo di ragazzi di 16 anni, che erano in prima fila. Tutti hanno cantato a squarciagola i miei pezzi, compresa l'estate migliore che c'è. Io ho detto, caspita, ma... bellissimo. E quindi, allora, un Sanremo non lo so... Però ci sono veramente tantissimi progetti, ecco, questo sì, tanti, che sono un po', come ti posso dire, ancora lì, messi lì, perché li stiamo vagliando ora, li stiamo cercando. Musica e televisione o solo musica? Ci sono progetti sia musicali che televisivi, e poi arriverà tutto adesso, nel senso che adesso tra poco. Restate sintonizzati. Certo, poi le state migliore che c'è, ci sarà anche l'autunno, l'inverno, l'autunno migliore che ci sono. Meno male. Daniele, hai ancora la possibilità di fare una domanda a Cristina? Ma non lo so, io la domanda che volevo farle era quella che l'ho fatta prima della canzone che non ha cantato lei, che se c'era una... Ah, quindi con l'Uomo Tigre. No, non voglio fare la domanda un po'... Ma i talent, sta cosa dei talent, mentre parlavi dello Zecchino, cioè di un'istituzione, di una cosa rassicurante, non vorrei dire educativa, però ogni tanto si può anche usare delle parole che hanno un sapore un po' così. Tu come la vedi? Come vedi il mondo dei talent, delle gare, dei reality, del mischiare la musica? Appunto, tu prima dicevi i bambini devono fare i bambini. Molto spesso quando guardi un talent vedi dei ragazzi che sembrano delle pop star di 40 anni. Allora, da una parte ti dico viva i talent, perché si ha la possibilità comunque, si dà la possibilità a tanti giovani che sono veramente dei talenti, che hanno veramente un gran talento, sono bravi, di esprimersi. Ecco, questo si parlava prima di riuscire ad esprimersi. Io credo che attraverso il talent tu possa esprimerti, no? L'unico, secondo me, problema nasce quando ce ne sono troppi, secondo me poi si perde un po' di vista lo spirito del dare la possibilità al singolo. Bravissimo, lo spirito, anche perché non riesci neanche a gustarti chi è uscito da quel talent, perché ne uscirà fra 6 mesi subito un altro, no? Magari dopo 3 un altro ancora perché ce n'è un altro, certo. E poi magari dopo 3 un altro ancora perché ce n'è un altro. Quindi io ti dico che da una parte viva i talent, perché io sono li guardo, quindi ti dico la verità, io me li guardo tutti perché mi piacciono, alla fine mi piace. Sì. Piaceresti anche come giudice? Sì, esatto, io pensavo la stessa cosa. Sarebbe divertentissimo, Cristina. Mi piace, a me piacciono i giovani e quindi io sono convinta che insomma bisogna dare, come ti ripeto, veramente lo spazio a chi ha voglia di esprimersi. Secondo me bisognerebbe forse goderseli un po' di farli più, diventare più eventi, volte, e meno flusso continuo. Perché a volte si fa uscire magari il giovane con quel singolo e poi non si ha il tempo di capire dove può andare. Di capire, povero, fin dove può arrivare, capito? Perché o sei talmente fortunato che hai una tua strada, hai capito subito dove vuoi arrivare, il pubblico ti segue subito. Oppure ci sono alcuni giovani che sono rimasti intrappolati lì e ti dispiace, certo, perché magari sono bravissimi e non riescono a fare quello che vorrebbero, perché ce ne sono già altri. È un po' come il cane che si morde la coda, sì, capito? Sì, sì, sì. Non lo so, però insomma stanno nascendo tanti bei giovani, tante belle voci, anche tantissimi bravi autori, perché io... Ecco, è vero. Io ho notato che ci sono tanti giovani che escono dai talent, che magari poi non hanno fortuna come interpreti, ma che sono degli autori meravigliosi, bravissimi. Cioè io ascolto i pezzi dei miei colleghi, poi leggo e dico ma dai, ma non è possibile. E invece è possibile, perché vedi, ci sono dei talenti che tu devi scoprire. E come fai a scoprirli se non li metti vedi in gioco? Sì. Saggia, brava, bella, io l'adoro. Dimenticati. È così però, gli autori fanno i pezzi. Sì. Saggia, brava, bella e poi soprattutto questa è l'estate migliore che c'è e io sono molto contenta intanto sono contenta di viverla, sono contenta che sia l'estate migliore che c'è, sono contenta che quest'estate favolosa abbia anche un grandissimo pezzo di Cristina D'Avena. Io vi ringrazio tantissimo, vi adoro, spero di tornare, magari così vi racconto i miei progetti. Che meraviglia, dai. Veramente godetevi, anche perché pare che mi ha ascoltato sto tempo, cioè da quando ho cantato l'estate migliore. È vero. Guarda che sole. Gli agricoltori mi hanno chiamato a casa, mi hanno detto oh, Cri, fai piovere, cioè, vedi di cantare un'altra canzone, magari alterna. No, però... Anche perché voglio dire la famosa pioggia ce la raccontiamo, appunto, ce la ricordiamo da decenni. Canterò ogni tanto Kiss Me Licia, perché ti garantisco che si faceva questa. Si parlava tra amici, diceva Cri, ma ti rendi conto che da quando hai cantato l'estate c'è un sole con sto caronte che arriva, che non c'è mai stata. Un'estate più calda di questa, non c'è. È l'estate migliore che c'è. Grazie Cristina. Ciao, grazie a tutti. Siamo l'estate migliore da vivere. Siamo chi siamo, un colore da scegliere. E tutto ciò che ameremo sarà perché abbiamo scelto l'estate migliore che c'è. Allora dobbiamo ringraziare tantissimo la nostra Valeria Bernardi in regia. Di più di tantissimo. È stata una puntata bella, balneare, ricca di tante cose. Cristian Goldoni anche... non lo vuoi salutare? Sì, Cristian sempre, Cristian sempre. Senza di lui non può andare in onda Radio Tube. Grazie a Daniele Bellasio, al prossimo sabato. Ciao!